10. Tortellini di carne di piccione. Questi tortellini merita il conto ve li descriva, perché riescono eccellenti nella loro semplicità. Prendete un piccione giovane e, dato che sia belle pelato, del peso di mezzo chilogrammo all'incirca, corredatelo con parmigiano grattato grammi 80, prosciutto grasso e magro grammi 70, odore di noce moscata. Vuotate il piccione dall'interiora, che il fegatino e il ventriglio non servono in questo caso, e lessatelo. Per lessarlo, gettatelo nell'acqua quando bolle e salatela. Mezz'ora di bollitura è sufficiente, perché deve essere poco cotto. Tolto dal fuoco, disossatelo. Poi tanto questa carne che il prosciutto, tritateli finissimi, prima col coltello, indi con la lunetta, e per ultimo, aggiuntovi il parmigiano e la noce moscata, lavorate il composto con la lama del coltello per ridurlo tutto omogeneo. Per chiuderli, servitevi del disco numero 8 e con 3 uova di sfoglia ne otterrete 260 circa. Potete servirli in brodo per minestra, oppure asciutti conditi con cacio e burro, o meglio con sugo e rigaglie.